succede sempre più spesso che su quella sorta di etichette aggiuntive che spiegano le avvertenze e modalità d'uso dei vini DOC si trovi, oltre alle informazioni sui produttori e i vitigni, qualche riferimento alle caratteristiche organolettiche del prodotto. Che l'espressione sia poi riferita all'intero gruppo delle caratteristiche suddette o solo ad una parte di esse di solito non viene specificato, ma non è così importante, perché al di là del riferimento a gusto, odore o colore, l'espressione viene intesa come una maniera elegante per significare che il tal vino o prodotto in generale è buono sotto ogni aspetto. Eppure, poche parole al pari di organolettico riescono a definire il rapporto ideologico che il produttore o il pubblicitario che ne cura i messaggi vogliono istituire con il consumatore. Organolettico designa ciò che può essere percepito dagli organi di senso. E se superiamo la classificazione di vezzo linguistico che normalmente accompagna questo termine, apparirà chiaro che la percezione visiva, gustativa o olfattiva è considerata come un fatto fisico o chimico, alla stessa stregua di un qualsiasi lettore ottico o magnetico. Esiste un organo che ha facoltà di percepire, ed esiste un prodotto che, sottoposto alla percezione di questo organo, ha dato come risposta la classificazione di buono. È del tutto ovvio che in questo ragionamento l'organo ha criteri di percezione costanti, in mancanza dei quali ogni valutazione ricadrebbe inevitabilmente nell'infinità delle risposte soggettive e come un granello di sabbia sulla spiaggia avrebbe assoluta necessità di essere accompagnata da un nome, cognome e motivazioni su cui fondare una qualsivoglia credibilità per chi la esprime. Il problema è che i criteri di percezione e quelli di valutazione che i nostri sensi e il nostro cervello esprimono sono tutt'altro che costanti. Qualunque cibo, per quanto buono possa essere definito, non otterrà grandi apprezzamenti da chi sia già sazio, e quello della sazietà è solo il caso più facilmente verificabile. Chi volesse affrontare il problema dell'oggettivazione della classificazione percettiva in termini scientifici dovrebbe perlomeno ridurre a valori standard parametri quali, oltre alla condizione del prodotto, le condizioni fisiche e psicologiche di chi lo assume, le condizioni ambientali in cui ciò si verifica e l'influenza di quei nessi propriamente ideologici collegati al nome del prodotto, alla simpatia di chi lo propone e agli eventuali ricordi e immagini che del prodotto si hanno. Ovviamente questa operazione presenta notevoli difficoltà. Se è relativamente semplice risolvere quelle legate all'ambiente e alla costanza del prodotto, è già molto più difficile trovare anche solo due persone che abbiano una funzionalità organica di livello anche virtualmente pari. E le difficoltà crescono quando si pensi di trovare anche solo due persone in cui la parola vino o qualsiasi altra susciti emozioni o ricordi se non uguali almeno dello stesso segno, positivo o negativo, e della stessa intensità. Ora, al di là di ogni fantasia su possibili esperimenti scientifici che tendano ad oggettivare le risposte a percezioni date, il punto è che, a mio avviso, noi classifichiamo come buono ciò di cui a qualsiasi titolo avvertiamo la mancanza. Ed è per questo motivo che anche il piatto preferito o la bevanda più gradita non danno sempre la stessa soddisfazione in momenti differenti. Ed è sempre per questo motivo che i gusti cambiano col passare del tempo. Forse è una limitazione mia, ma nell'addizione caratteristiche organolettiche e nella sua pretesa di oggettivare le percezioni e valutazioni connesse non riesco a vedere niente di buono. Scientificamente è infondata, culturalmente tende a levare all'individuo anche la facoltà di decidere delle sue sensazioni. I can see the change in your sight.